Sospirando aspetta il poverino. La tua faccetta mostrami che lo baciava senza amor mi cruccia, mi sta tormentor, e mi sta tormentor. Colombina, schindimi il finestrino, che a te Arlecchino, a te vicino.